Ancora insieme dalle strade del Giro d'Italia, la crono conclusiva a Milano va a Marco Pinotti, il 95esimo giro al canadese Ryder Heisedal. Questo è il verdetto della Corsa Rosa. Heisedal ha preceduto di 16 secondi lo spagnolo Rodriguez, terzo De Gendt, il re dello Stelvio, ai piedi del podio Basso e Scarponi. Il servizio. 3 settimane di corsa, 21 tappe, 3.500 chilometri, tanta, tanta noia, poi tanta, tanta salita. Vince un canadese, Ryder Heisedal, la prima volta in 95 edizioni di giro. Alle sue spalle il catalano Joaquin Rodriguez, che perde il giro nell'ultima crono, all'ultima curva, per soli 16 secondi. Terzo il grande protagonista del tappone del giro, l'eroe dello Stelvio, Thomas De Gendt, che butta giù dal podio il nostro Michele Scarponi. Fanno festi forestieri in un Giro d'Italia che guarda gli stranieri, che parla l'inglese, che si scopre cosmopolita, che scopre le salite, però solo negli ultimi 4 giorni, dopo 2 settimane e mezzo di tatticismo esasperato, di paura e spettri da affrontare sempre il giorno dopo. Per noi solo 4 piazzamenti nei primi 8 posti della Generali, Scarponi quarto, Basso quinto, Cunego sesto, Pozzovivo ottavo. Non è una disfatta, ma nel giro di domani la festa la fanno gli altri, oggi. Nel giro di domani a noi italiani non resta che aspettare che gli Ulisse, i Carusi e compagnia crescano e che i loro direttori sportivi li mettano nelle condizioni di spiccare il volo, perché in questo giro del giorno dopo anche il nostro ciclismo, come questo giro, ha un domani sicuramente roseo. Pier Augusto Stagi, Radio 24, Sole 24 Ore, Milano. E allora sentiamo il trionfatore del giro, Ryder Heisedal. È un'emozione incredibile, ha detto il canadese in Piazza del Duomo. Sono stato concentrato ogni giorno, pronto a sfruttare ogni occasione. La squadra mi ha seguito al 100% e ho sentito vicini tutti i miei tifosi in Canada. Davvero è un premio immenso per gli sforzi che abbiamo fatto. Grazie a tutti. Così Heisedal è il trionfatore del 95esimo Giro d'Italia. Ancora un saluto da Dario Ricci.